Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Se ci ascoltate in replica alle 20.45, ovviamente un buon fine serata a tutti voi. Subito la mail alla quale indirizzare le vostre segnalazioni: un abuso al giorno @radio24.it. Il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore è Guardioladri, oppure cliccando su Google basta andare su robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Ricorderete che alcune settimane fa ci siamo nuovamente occupati di abusivismo edilizio con un caso alle porte di Roma, un borgo completamente abusivo secondo il Corpo Forestale dello Stato, difeso invece negli atti da parte del sindaco. Chi segue la trasmissione sa che spesso torniamo su questi temi perché ci piace affrontarli e soprattutto ci piace capire. Allora, dovete sapere che alcune settimane fa il capogruppo di Alleanza Nazionale al Consiglio regionale campano, Enzo Rivellini, che è stato ospite più volte delle mie trasmissioni, non perché io guardi al colore politico, di cui non mi interessa assolutamente nulla, ma soltanto perché è un consigliere con grandissimo spirito civico, ha presentato una nuova denuncia su ciò che sta accadendo a Cardito, un paese campano dove, secondo una denuncia di Rivellini, che addirittura è datata 2 anni fa, ci sarebbe un continuo scempio edilizio, al cui confronto quello di Casalnuovo, lo ricorderete, che portò in carcere mezza giunta, è ben poca cosa. E per parlare ancora una volta di Campania, ahimè, ma questo accade ovunque, lo sapete, abbiamo con noi il consigliere regionale di Alleanza Nazionale Enzo Rivellini. Buongiorno Rivellini. Buongiorno a tutti. E abbiamo il sindaco di Cardito Giuseppe Barra, che rappresenta una giunta di centrosinistra. Il nostro sindaco è dell'Italia dei Valori. Buongiorno Barra. Buongiorno a lei, buongiorno all'onorevole in collegamento. Allora Rivellini, ci descriva in sintesi la sua denuncia. Che tipo di scempio si sta perpetrando, secondo lei, ancora una volta in Campania? Ma in parole povere, la mia interrogazione del dicembre del 2006, ripeto, dicembre del 2006, che ad oggi non ha ancora avuto una risposta adeguata, ha questo contenuto. Nel comune di Barra, nel 1990, è stato approvato un piano regolatore che dava la possibilità del singolo vano di 100 metri cubi, più o meno 30 metri quadri. All'improvviso nel 2003 si passa da 100 metri cubi a 262 metri cubi e questo passaggio viene bocciato dall'allora capo dell'ufficio tecnico Amedeo Di Fratta, che naturalmente viene immediatamente licenziato e sostituito dall'ingegner Vincenzo Costanzo, che guarda caso era segretario cittadino dell'Udeur, il partito del sindaco, il partito che aveva vinto le elezioni. Che del sindaco dell'epoca Rivellini stiamo parlando? No, il sindaco all'epoca era dell'Udeur, che è in collegamento con noi, il dottor Barra, all'epoca era dell'Udeur, oggi dell'Italia dei Valori, era esatto, già all'epoca sindaco di Cardito. Che cosa significa passare da 100 metri cubi a 262 metri cubi? Che naturalmente un vano, invece di essere mediamente di 30 metri quadri, diventa più o meno di 100 metri quadri. E naturalmente in questo modo, con un vano di 100 metri quadri, tu dai la possibilità con un vano di fare un appartamento. Diciamo che più o meno è una furbizia che chiaramente lascia il tempo che trova, e credo assolutamente che tutti gli ascoltatori possono trarre le conclusioni. Ecco, io per sintesi poi racconto, Rivellini, che la regione Campania ad un certo punto interviene perché capisce che qualcosa non funziona, intimando al comune di interrompere, annullare gli atti autorizzatori fino a quel momento in via di predisposizione. Ma mi pare di capire, Rivellini, le ripasso ancora la parola, che il comune ancora oggi, secondo la sua denuncia, continua a fare orecchie da mercato. Non solo, ma ieri, proprio per definire la giornata di ieri, io ho incontrato l'assessore Cundari, l'assessore regionale, che ancora oggi, a 2 anni dalla mia interrogazione, non mi sa dare una risposta. Ecco. Non mi sa dire perché l'ingegner Gianni Manica, che è il capo del settore, urbanistica della regione Campania, pur avendo mandato una nota al comune di Cardito con un procedimento che si doveva concludere in 18 mesi, non ha ancora avuto nessun tipo di risposta e riscontro al comune di Cardito. Ecco Rivellini, io la interrompo un attimo perché stiamo dividendo il tempo tra accusa e difesa e quindi do la parola al sindaco Barra, che ha tutto il diritto di replicare a queste gravi accuse che provengono da Rivellini. Prego Barra. Non avevo dubbi che la interrogazione dell'onorevole, conoscendo il suo impegno su vari fronti, sul suo operato in Regione Campania, nasceva da una disinformazione di fondo. Premesso che la delibera è datata luglio 2003, quindi interrogazione, parliamo già di 3 anni e mezzo dopo. Premesso che è errato dire che di fratto è stato rimosso, in quanto io procurerò gli atti, a parte il fatto che questi atti sono stati inviati a carabinieri, guardia di finanza, polizia, magistratura, più magistrati si sono interessati di quel caso già nel 2003. Premesso che quella delibera porta il parere sia dell'ingegnere Amedeo Di Fratte, che non è stato assolutamente rimosso, ma anzi è stato passato al controllo del territorio sull'abusivismo edilizio e sulla verifica dei cantieri. Quindi voglio dire è stato, diciamo, elevato di un gradino, non certo penalizzato. Però veniamo alla vicenda. Chiedo scusa, non mi interrompa. No, io la interrompo perché il programma lo conduco io. Quindi veniamo alla questione. Se me lo fa spiegare a Rivellini, non la interrompo. Ecco. La delibera, oltre al fatto che è datata luglio 2003, ha due, onorevoli pareri. Uno di un professore universitario che risponde a nome del professore Cristiano della Federico II, quindi è un altro di un costituzionalista che è il professore Giuffrè, con i quali abbiamo avuto tutta una serie di incontri e una volta deliberato quell'atto non ha avuto, diciamo, non gli abbiamo fatto produrre effetti immediati, ma proprio perché sapevamo che anche gli organi inquirenti erano interessati a quell'atto, l'abbiamo tenuto nel cassetto per un anno, quindi per un anno noi non abbiamo rilasciato alcuna concessione edilizia. Ecco. Posto ancora questo, quando va precisato che la delibera, a differenza di Casalnuovo, e qua incorre in un errore, ma ripeto, voglio imputarlo solo a una cattiva informazione o una leggera disinformazione dell'onorevole Rivellini, i suoli interessati di questa delibera erano suoli residenziali nel piano regolatore. Noi non abbiamo preso suoli agricoli o suoli industriali, abbiamo resi residenziali. Ecco, però posso chiederle una cosa, Barra? Chiedo scusa. Ecco, poi devo fare una domanda. La delibera che cosa ha fatto? Cardito è vero che ha subito uno stravolgimento sul territorio dei pochi chilometri quadrati. Noi siamo 3 chilometri e 200 metri quadri con 25.000 abitanti. Ma questo dato è dovuto che dal 70 al 2003 c'è stato il fenomeno dell'abusivismo edilizio su suoli su suoli agricoli, su suoli industriali, che hanno fatto sì che nel nostro comune chi doveva costruire illegalmente e illegittimamente costruiva, chi teneva il suolo certificato dal comune come suolo residenziale dove aveva aspettato per 30 anni. Ecco, per 20 anni. Barra, un secondo, però volevo interrompere perché sicuramente quello che lei ci dice è la difesa ufficiale del comune, non ne prendiamo atto. Però le risulta o non le risulta che la regione però vi ha detto guardate che così non va? Allora, noi abbiamo consentito a chi ha aspettato legalmente e legittimamente un proprio diritto per 20 anni senza costruire abusi di costruire. Come si è arrivata a una soluzione tecnico-giuridica lo dovete chiedere ai due professori università, non a me. Per quanto riguarda invece l'abusivismo edilizio sul nostro territorio, le posso dire, e questo è dimostrabile con dati, con fatti e con atti, che da quando abbiamo sbloccato l'edilizia legale è ridotto il fenomeno dell'abusivismo edilizio, si è ridotto del 95%. Beh, questo non ho motivo di non crederlo, ovviamente. Prima è stato saccheggiato e poi quelle poche oasi che rimanevano sono state legalmente, secondo la sua visione, costruite. Ma questo mi pare un gioco da ragazzi. Però le chiedo, la regione allora è vero o non è vero che però vi ha detto non va così? La regione è intervenuta a seguito di una lettera dopo 3 anni di distanza d'approvazione di quell'atto, della provincia, dell'assessore Moccia, con il quale io, con i miei dirigenti, mi sono recato a discutere con il professore Moccia. Il professore Moccia ha concordato con me, altro professore urbanistica, dell'urbanistica dell'Università di Napoli, che per il momento era assessore ed è assessore all'urbanistica pro tempore della provincia. Siamo andati là a disquisire e abbiamo, diciamo così, presentato le vostre ragioni. Abbiamo presentato le vostre ragioni, ma abbiamo anche concordato con la provincia che noi avremmo redatto un nuovo PRG dove si andasse a prendere atto di tutto quello che esisteva sul nostro territorio. Io la chiamo sanatoria questa, però, Barra. E tutto lo stravolgimento che si è avuto nei 30 anni. Ecco, io la chiamo sanatoria, quindi francamente le sanatorie a me a posteriori poco piacciono, ma questa è un'impressione personale. Io la ringrazio, Barra, per il suo intervento, così come ringrazio Rivellini. La vicenda ovviamente non finisce qui, perché abbiamo raccontato soltanto la prima parte. Torneremo a breve per capire come sarà andata a finire, perché la Regione Campania deve ancora una risposta all'interrogazione dell'onorevole Rivellini. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Pietro Lacorte in regia, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.